Sai cosa penso dell'amore? Che puoi trovarlo in ogni dove. Nel parco dietro alla stazione, nelle lasagne di tua madre. In ogni blocco di partenza, nella pistola di uno starter, nel calendario cancellato, con quelle X fatte a matita, è un'altra vita che si inizia, il gusto di una liquirizia. È il tavolino di una piazza, è quel sorriso che ti spiazza. Sole che splende anche di notte, il sogno che ti apre le porte, un libro sottolineato. Non sei il mio weekend, ma il suo continuo lieto fine. Lo puoi trovare al mare oppure al cesso di una discoteca. In quel marzo che ci ha allontanato, in un capitolo sbagliato, in tutto già dimenticato. Tu non lo giudicare male, viviamo solo per amare.